Non so niente di te, tu però piaci a me e sorridendo d'amore so che cerca il tuo cuore e il mio cuore. Siamo felici così, vieni qui, fammi sorridere bene sino al fondo di questo bicchiere. Fondo del bicchiere c'è questo mio cuor pieno d'amore per te, perciò se tu verrai con me saprai questa sera l'amore cos'è. Ormai sappiamo che noi ci amiamo, beviamo, beviamo, beviamo, beviamo, e mentre gli occhi scintillano cantiamo viva Bacco con Venere. Oh, viva me insieme a te. Tutto comincia a girare, ondeggiare come il mare. In questo bel dondolare io vorrei la tua bocca baciare. Non sai resistere più, anche tu, dammi un bacione sincero, come il vino di questo bicchiere. Beviamo, beviamo, beviamo, beviamo, e mentre gli occhi scintillano cantiamo viva Bacco con Venere.